get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Benvenute da Caterina, Debora e Laura. Siamo giunte alla 11ª trasmissione del nostro ciclo ed oggi, oltre ai consueti spazi dedicati alla musica lesbica indipendente e agli appuntamenti, vi parleremo di un importante progetto a cura di Azione Gay e Lesbica, di alcune notizie provenienti dal mondo e, naturalmente, diremo qualche dolce parolina a proposito del magico intervento di Gianfranco Fini al Maurizio Costanzo Show. Ma cominciamo da una recensione dedicata al libro Carol di Patricia Highsmith. È una storia delicata che parla di una giovane scenografa ancora senza lavoro che, per vivere, accetta di fare temporaneamente la commessa in un magazzino durante le feste natalizie. Il suo rapporto con Richard si sta assottigliando, tutta la sua vita sembra scorrere senza grandi sogni e senza grandi aspettative fino a quando un giorno Carol vede arrivare Therese al bancone degli articoli da regalo dove lei sta lavorando e è un vero colpo di fulmine che le modificherà la vita. Una serie di circostanze e di avvenimenti si succederanno fino a... Eh no, non posso certo dirvi come finisce. Voglio però intrigarvi leggendovi non il finale, ma una pagina di delicata seduzione. «Posso dormire con te?» chiese Therese. «Lo hai visto il letto?» Era un letto matrimoniale. Sedute nel mezzo, in pigiama, rimasero a bere il latte e a dividersi un'arancia che Carol aveva troppo sonno per finire. Poi Therese posò il contenitore sul pavimento e guardò Carol che dormiva già, bocconi, un braccio gettato in là nella posizione in cui sempre si addormentava. Therese spense la luce. Poi Carol le fece scivolare il braccio sotto la nuca e i due corpi rimasero a contatto per tutta la loro lunghezza, aderendo come se tutto fosse stato in qualche modo predisposto. La felicità era come vino nuovo che si spargesse in lei, distendendo lievissimi viticci, recando le fiori nella carne. Ebbe per un attimo la visione di un pallido fiore bianco che baluginava come visto nel buio attraverso l'acqua. Si domandò perché gli altri parlassero di cielo. «Dormi?» disse Carol. Therese si augurava di no, ma quando sentì la mano di Carol muoversi sulla spalla, comprese d'aver dormito. Era l'alba ormai. Carol le serrò le dita fra i capelli, la baciò sulle labbra ed il piacere insorse di nuovo in lei come se fosse soltanto la continuazione del momento in cui Carol le aveva fatto scivolare il braccio sotto la nuca la sera prima. «Ti amo!» avrebbe voluto ripetere Therese, ma poi le parole vennero cancellate dal terrificante fremito di piacere che dalle labbra di Carol si spandeva in ondate al suo collo e alle sue spalle, che d'improvviso le invadeva da capo a piedi. Le sue braccia erano strette intorno a Carol e lei era consapevole di Carol e di niente altro, della mano di Carol che scivolava lungo le sue costole, dei capelli di Carol che le sfioravano il seno nudo. Infine, l'intero suo corpo parve svanire in cerchi che si facevano sempre più grandi e si spingevano sempre più in là, fin dove il pensiero non poteva più seguirli. Mentre a migliaia, i ricordi e i momenti, le parole, il primo tesoro, la seconda volta che Carol era venuta a prenderla al negozio, infiniti di ricordi della faccia di Carol, della sua voce, di istanti di collera e di risa, le balenavano nella mente come la coda di una cometa. E adesso tutto era distanza cilestrina e spazio, uno spazio che andava espandendosi e in cui lei spiccava improvvisamente il volo come una lunga freccia. La freccia sembrava attraversare senza sforzo un abisso di ampiezza inaudita, sembrava inarcarsi sempre più verso l'alto e non fermarsi mai del tutto. Poi si rese conto di essere ancora aggrappata a Carol, di tremare violentemente ed essere lei quella freccia. Si vide davanti agli occhi i capelli chiari di Carol, che ora aveva la testa vicinissima alla sua, e non doveva domandarsi se questo fosse bene, nessuno doveva dirglielo, perché niente poteva essere più giusto o più perfetto. current of love so deep in me. Every sigh in the night, every tear that you cry seduces me. And all that I am and all that I'll be means nothing at all if you can't be with me. Most innocent kiss or your sweetest caress seduces me. I don't care about tomorrow, I've given up on yesterday. Everything in this world, every voice in the night, every little thing of beauty shining through in your eyes, and all that is you becomes part of me too, 'cause all you do is to do. Dopo le note di Céline Dion con Seduce Me, sentiamo che notizie ci dà la bollettina di questo mese. Il foglio redatto da CLI, collegamento fra le lesbiche italiane, storico gruppo lesbico del Centro Femminista Separatista di Roma. Si è svolta a Tokyo, ed era ora, la prima manifestazione di lesbiche, in cui le 200 partecipanti hanno protestato contro l'immagine della lesbica portata avanti dalla pornografia ad uso e consumo dei maschi, rivendicando un'esistenza più positiva. Sempre la bollettina conforta noi lesbiche separatiste italiane, dimostrandoci che il lesbismo americano non è stato completamente inghiottito dal variopinto movimento queer e che riesce ancora ad esprimere punte eccelse di radicalismo. Sentite quanto afferma Lea Delaria, attrice comica di successo a New York, esprimendo alla rivista lesbica inglese Diva le sue difficoltà nel trovare ruoli soddisfacenti in quanto lesbica dichiarata. Negli USA sembra che le lesbiche non vogliono altro che diventare soldato e sposarsi, ma 25 anni di lotta non possono essere svenduti per il diritto di diventare fascista nell'esercito. Ne si può barattare il far l'amore con chi ci piace senza dover raggiocare nessuno, con il cosiddetto matrimonio. Sono stufa di andare al Pride e vedere tutti quei viscidi piccoli borghesi sul palco che parlano di quanto sono gay i loro dottori e avvocati, eccetera, e mai di falegname in bianchini. Sembrano ossessionati dall'apparire normali e mi dà i nervi. La verità è che dovremmo smettere di leccare il culo agli eterosessuali. Non ho bisogno della loro accettazione, voglio il rispetto. Un esempio di quanto la Delaria mette in pratica con ironia la sua visibilità lesbica è dato dal suo recente intervento in Michigan, alla convention del Partito Democratico, facendo seguito ad una sua battuta di benvenuto all'amministrazione Clinton nel 1993. Finalmente abbiamo una first lady con cui poter fare l'amore. E in Michigan ha detto: è passato un bel po' di tempo da quanto ho turbato la gente facendo della first lady una donna oggetto. Sono più vecchia adesso e ho cambiato opinione. Ora voglio la figlia. E da tanta lucida ironia passiamo a quanto la stampa di regime, nella fattispecie la Repubblica delle Donne, continua a veicolare sul lesbismo. In un articolo sul sexy shopping pubblicato nell'ultimo numero c'è un paragrafo intitolato L'amore diverso, in cui la bisex Silvia, grafica pubblicitaria di 24 anni, afferma: a me piace utilizzare vibratori a forma di pene, soprattutto con le donne, con le quali sento di avere più feeling. In un rapporto lesbo, una delle due fa l'uomo. Speriamo di non incontrare mai la confusissima Silvia. Il brano che ascolteremo tra poco per la sezione di musica lesbica indipendente è Alice Says Yes, da Steel Riot, della canadese Ferron. La sua voce vi trasmetterà un'energia quasi palpabile, grazie anche alle abili musiciste che la accompagnano. First comes the kiss, then comes the hands too hot to touch. Feeling like this, I wanna be with you so much. Driving to work in the morning, everyone's house looks warm inside. I can't believe what I'm thinking. I gotta be out of my mind. When you give me a cactus flower, I figure you're telling me how it is. We make love as a cosmic shower. And I ask you, are we friends too? I talk to my sister about it all, to see what she did when she was here. She tells me, freedom is not so clear. I'm alive in my center, and true to the core is how I feel. I don't believe I have entered the place she says when nothing's real. You give me a heart-shaped box, give you a miniature moving van. When you tell me Oggi andremo a conoscere un po' meglio uno dei personaggi più singolari del movimento omosessuale italiano, Graziella Bertozzo, da anni sulla scena della lotta politica promossa da Arci Gay e Arci Lesbica, ma oggi lontana dalle loro posizioni. È infatti stata una delle promotrici di una nuova associazione, Azione Gay e Lesbica, nata nell'ottobre del 1997 durante un'assemblea straordinaria del Circolo Arci di Firenze. In quella sede i soci e le socie hanno deciso di non rinnovare l'affiliazione ad Arci Gay e Arci Lesbica, in quanto in disaccordo con la decisione presa nel congresso del 1996 che ha sancito la creazione di due associazioni distinte, Arci Gay ed Arci Lesbica, confederate con altre associazioni come la Lega Italiana Famiglie di Fatto e l'Associazione dei Centri di Documentazione. Non tocca certo a noi lesbiche separatiste, lontane anni luce dalla politica arci in generale, commentare questa storica decisione del 1996. C'è da dire comunque che questa scissione non ha mancato di far sentire precise conseguenze anche nel movimento lesbico separatista, a tal punto che la loro analisi è ancora in corso. Non è il caso ora di approfondire più di tanto questo discorso. Diciamo solo che speriamo che la decisione presa dal Circolo di Firenze e più o meno appoggiata dai circoli di Torino, Verona, Pisa, Padova, Sassari e Catania, almeno per quanto riguarda le lesbiche, non dipenda esclusivamente dall'aver voluto svincolare Arci Lesbica da Arci Gay, ma da una più profonda revisione della politica fino ad oggi portata avanti dal movimento omosessuale misto. Comunque, Azione Gay e Lesbica, nel Circolo Finisterre di Firenze, svolge oggi diverse attività per la comunità omosessuale, che, oltre a quelle ludiche del sabato sera presso la discoteca Backdoors di Poggio a Caiano a Prato, vanno dal consultorio all'assistenza legale e ai gruppi a tema sulle unioni civili. Il gruppo di lavoro e studio sulle tematiche lesbiche si riunisce ogni martedì sera presso la sede dell'associazione, in via San Zanobi 54 a Firenze, raggiungibile al telefono fax 055 47 65 57 e su internet al sito http://agora.stm.it/gaylesbica.fi con email gaylesbica.fi@agora.stm.it. L'iniziativa più interessante di Azione Gay e Lesbica è quella che sentiremo raccontare dalla voce di Graziella Bertozzo in un'intervista raccolta dal CLR durante la sesta edizione di Immaginaria e che è stata presentata in una conferenza stampa a Firenze il 5 febbraio di quest'anno, condotta da Elena Biaggini, presidente di Azione Gay e Lesbica, e dalla stessa Bertozzo, responsabile del progetto. Stiamo parlando di chi sono quella ragazza, quel ragazzo, il progetto di informazione e sensibilizzazione per combattere la violenza contro gli adolescenti omosessuali, organizzato nell'ambito dell'iniziativa DAFNE dell'Unione Europea, fondo a favore della lotta contro la violenza a bambini, adolescenti e donne. I partners di Azione Gay e Lesbica nel progetto sono l'Associazione SETA di Helsinki e Gay HIV Strategies di Dublino. E l'idea del progetto è nata dall'indagine dell'ISPES del 1991, in cui risultava che il 24% degli omosessuali con meno di 20 anni intervistati avevano subito violenza in relazione alla propria omosessualità, che il 32,5% aveva pensato di suicidarsi e che il 10,8% aveva effettuato un tentativo di suicidio. Obiettivo generale del progetto è di contribuire a formare una rete per promuovere e per coordinare a livello europeo la conoscenza e l'informazione relative all'identità degli adolescenti omosessuali, per prevenire la violenza fisica e psicologica nei loro confronti. In particolare l'acquisizione dei dati si sta svolgendo tramite questionari su pagine web. Ripetiamo ancora una volta l'indirizzo www.agora.stm.it/gaylesbica.fi. Ringraziamo Pina, Caterina e Angela del CLR per la realizzazione dell'intervista durante la sesta edizione di Immaginaria. E inoltre, per maggiori informazioni, oltre ai riferimenti che vi abbiamo dato, potete inviare un'email a daphne100@hotmail.com. Sentiamo direttamente dalla voce della Bertozzo gli aspetti principali del progetto. Si tratta di un progetto che si intitola Chi sono quella ragazza, quel ragazzo, che noi abbiamo pensato l'anno scorso e abbiamo presentato nell'ambito dell'iniziativa Daphne, che riguarda la violenza sulle donne, i bambini e gli adolescenti, finanziata dall'Unione Europea. Il nostro progetto riguarda in specifico la violenza sugli adolescenti a causa del loro orientamento sessuale. Ce l'ha finanziato l'Unione Europea per 70 milioni, più altri 30 milioni ci verranno dati da alcuni enti locali, fra cui il Comune di Firenze, il Comune di Campi Bisenzio, di Fiesole e di Lastra Signa della provincia di Firenze, la provincia di Firenze e Arci Nuova Associazione, il Comitato Provinciale di Firenze, con una collaborazione anche da parte dell'azienda sanitaria di Firenze. È un progetto molto specifico che noi però abbiamo presentato nella convinzione, al di là di fare qualcosa relativamente alla violenza sui gay e sulle lesbiche, anche di fare qualcosa relativamente alla violenza sulle donne, i bambini e gli adolescenti più in generale, in particolare sulle donne. Volevo sapere a chi era indirizzato questo corso, cioè come si poteva accedere a questo corso. Allora, il progetto non è soltanto fatto da un corso. Come azioni prevede innanzitutto un'indagine che noi effettuiamo attraverso le nostre pagine web, dove c'è un questionario, anzi se qualcuno è interessato si può rivolgere a noi, gli diamo l'indirizzo delle pagine o direttamente a voi anche, credo, qui lo lasceremo. Che cercherà di rilevare la violenza subita dai gay e dalle lesbiche durante l'età adolescenziale. Contemporaneamente prevediamo, anzi queste le abbiamo già effettuate, una serie di interviste ad insegnanti, assistenti sociali, psicologi che lavorano nei servizi pubblici per vedere se lì arrivano queste segnalazioni, se si accorgono che esistono gay e lesbiche della fascia giovanile, cioè meglio minorenni, che molto spesso subiscono violenza da parte di adulti, subiscono costrizioni da parte di adulti. Prevede una ricerca compiuta attraverso rassegne stampa, eccetera, sulla violenza sui gay e sulle lesbiche. A questo farà seguito un workshop che si terrà a fine marzo a Firenze con i nostri due partner europei, che sono un'associazione di Dublino e un'associazione finlandese, che svolgono un lavoro analogo al nostro nel loro paese. Dopo questo workshop lì si cercherà di elaborare i contenuti di due tipi di corsi di formazione. Uno rivolto agli insegnanti della scuola media inferiore e superiore e uno rivolto agli assistenti sociali e psicologi che lavorano nella struttura sanitaria. Fra l'altro l'azienda sanitaria di Firenze come contributo darà il fatto di rendere obbligatorio questo corso per una serie di propri dipendenti, dove cercheremo di iniziare a sensibilizzare gli operatori che vengono a contatto con i giovani minorenni sul fatto che esistono anche giovani minorenni gay e lesbiche, cosa che dall'intervista abbiamo rilevato non essere risaputo, cioè di fronte agli assistenti sociali che abbiamo intervistato, a cui andiamo a porre la domanda ma ti sono mai successi di casi di violenza, dei casi di problematicità rispetto ad adolescenti ad orientamento non eterosessuale, questi hanno risposto di non aver mai saputo che questo esista nel loro contesto operativo, cosa che noi sappiamo per esperienza essere impossibile, perché poi vediamo che dagli stessi luoghi arrivano delle schede compilate da giovani che vivono lì, quindi evidentemente c'è qualche cosa che non funziona. Ecco, sostanzialmente il progetto è questo. Poi ci sarà alla fine un altro workshop che si terrà a Strasburgo a novembre, ottobre-novembre, dove noi stiamo cercando di organizzare la possibilità di presentare i risultati di questo progetto a rappresentanti del movimento gay e lesbico di tutti gli stati dell'Unione. Sostanzialmente, detto brevemente, questo, e poi via via ci sono. Senti, quali forme di violenza avete riscontrato fino ad ora? Perché parlare di violenza è specifico, ma detto in questo modo può sembrare molto, molto generico. Invece qual è la vostra esperienza a tal proposito? Ma io credo sia un po' presto per dirlo, perché il questionario è partito da una quindicina di giorni sulle pagine web, però io ci ho già dato un'occhiata. Il problema più grosso io credo sia il fatto che è molto difficile per chi subisce la violenza sentirsi oggetto di violenza, per cui si preferisce parlare di discriminazione, perché noi abbiamo fatto due tipi di domande, cioè un questionario molto lungo, sono 77 domande, però cioè ogni domanda ne comprende più di una, quindi alla fine sono circa 200. C'è una sezione riguarda la discriminazione, un'altra riguarda la violenza. Tutti stanno dicendo che in Italia è molto diffusa la violenza sui gay e sulle lesbiche. Tutti dichiarano di essersi sentiti discriminati, generalmente dalla famiglia, comunque è l'imputato maggiore. I casi di violenza che invece sono denunciati in questo questionario sono denunciati in prevalenza dai maschi e riguardano soprattutto il gruppo dei pari, cioè i compagni di scuola, cioè i teppisti ce n'è qualcuno, però più che i teppisti veri e propri è proprio la discriminazione subita dal gruppo dei pari. Quindi quello ci fa capire come l'intervento fondamentale sarebbe quello relativo alla scuola, però è anche laddove noi abbiamo più difficoltà di intervenire. Ecco, un grosso vantaggio di questo progetto è che i corsi di formazione che noi andremo ad organizzare, due durante i mesi di maggio-giugno ed altri due durante i mesi di settembre-ottobre, sono, essendo finanziati direttamente dall'Unione Europea, automaticamente vengono riconosciuti ai fini dell'aggiornamento per l'avanzamento di carriera degli insegnanti, cosa che in Italia non è mai stato possibile attuare, pur avendo fatto dei tentativi di organizzare dei corsi di formazione per insegnanti. Difficilmente vengono riconosciuti, difficilmente è possibile entrare in contatto con l'amministrazione scolastica, proprio perché c'è una grossa barriera, hanno molto paura di questo tema, quindi il meccanismo è quello di partire dall'Unione Europea, perché l'Unione Europea io ritengo sia molto più avanti dell'Italia. Gli appuntamenti. A Torino, dal 16 al 22 aprile, si sta svolgendo la 13ª edizione di Da Sodoma a Hollywood, la grande rassegna cinematografica a tematica gay e lesbica. Non spiccano purtroppo titoli importanti di film lesbici, se non Sabor Ami, di Claudio Morgado, regista di Unbound. Per informazione 011-535046 oppure email a glfilmfest@assioma.com. Procede il lavoro delle lesbiche per l'organizzazione della terza settimana lesbica, che si terrà a Bologna presso Villa Guastavillani dal 3 al 7 giugno. Già presenti in calendario, oltre alle feste del mercoledì e del sabato, per il giovedì una serata di teatro, per il venerdì una tavola rotonda sulle pratiche politiche e le prospettive dei movimenti lesbici europei, per la quale si prevede l'intervento di Lepa della Serbia e di rappresentanti finlandesi, irlandesi, inglesi, francesi e svedesi. Ancora il venerdì ci sarà un dibattito sul sadomaso, mentre il sabato si lavorerà su un workshop sul World Pride di Roma 2000. Siamo in attesa dei risultati che si sono avuti nella riunione di sabato 18 aprile, che si è tenuta a Bologna presso la Sala dei Notai di Via dei Pignattari 1. Per informazioni, la segreteria del forum è contattabile allo 055 47 65 57. Come ultimo appuntamento, con data imprecisata, vi annunciamo l'imminente uscita nelle sale cinematografiche del bellissimo Fire di Deepa Mehta, distribuito dalla Lucky Red, che è stato proiettato in anteprima di Immaginaria e ha vinto il premio del pubblico nella categoria narrativi. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Attenzione, il coordinamento non si riunisce più il mercoledì presso il Centro Femminista di Roma, ma il lunedì dalle 20 alle 22. Potete contattarci in ogni momento lasciando un messaggio in segreteria o inviando un fax allo 06 68 64 201. Ed ora, la stupenda artista irlandese Sinéad O'Connor in Fire of Babylon. To Avrete sicuramente assistito al dibattito che si è aperto rispetto alle dichiarazioni fatte da Gianfranco Fini al programma di Costanzo. Dunque, secondo l'esponente di Alleanza Nazionale, gli omosessuali non possono fare i maestri elementari. E subito si sono susseguite dichiarazioni a favore o contro Fini, sia sulla carta stampata che nei radio e telegiornali. Ma è veramente Fini il problema? Il suo essere di destra è risaputo. Ma allora perché tutto questo scalpore? Non dimentichiamo che nei campi di concentramento non c'erano solo gli ebrei con la stella di Davide, ma anche una quantità enorme di persone, anche loro con una sola colpa, essere omosessuali. Non a caso, infatti, nelle manifestazioni gay dei nostri giorni, il triangolo rosa, che era il marchio attaccato sui vestiti degli omosessuali nei campi di concentramento, è stato assunto dal movimento gay e lesbico come simbolo di riconoscimento e di identificazione. Ma torniamo a Fini. L'ondata di rinnovamento che Alleanza Nazionale ha scelto di seguire a Fiuggi durante il suo congresso ha fatto sì che molti credessero ad un nuovo movimento politico più democratico, più moderno e addirittura più civile. Ricordate la visita di Gianfranco Fini alle Fosse Ardeatine? Bene, è giusto dire che, però, non tutti si sono lasciati intrappolare da questa rete. La destra è destra e Fini è un uomo di destra. E allora, qual è il problema? Forse sta nel fatto che Costanzo, uomo pubblico, opinionista, che gestisce una trasmissione televisiva, non abbia ritenuto opportuno dissociarsi da cotanta affermazione, così come aveva invece ritenuto di dover fare in un'altra trasmissione nella quale Elvira Banotti affermò, a nostro parere in modo del tutto legittimo, che la Chiesa è la prima responsabile del continuo perpetrarsi dell'assoggettamento della donna al potere maschile. O forse il problema sta nel fatto che alle parole di Fini sia seguito un applauso liberatorio da parte della platea del Teatro Parioli? Forse sì. Forse coloro che hanno applaudito si sono riconosciuti nelle parole di un uomo di destra che sbandierava ai quattro venti la sua violenza sociale e culturale. Forse molti di coloro che hanno applaudito non avrebbero mai osato tanto. Oggi che siamo in un clima di tolleranza tale dove chiunque è portato a dire «Io non ho nulla contro gli omosessuali, basta che...» E proprio questo «basta che» è stato strategicamente agguantato da Fini e, in conclusione, quella platea ha applaudito una persona che sarebbe disposta, e senza pensarci neanche più di tanto, a non mandare più gli omosessuali nei campi di concentramento, ma di arrogarsi il diritto di decidere coercitivamente il destino di un'altra persona. Non ti uccido, ma decido io come devi vivere, cosa puoi o non puoi fare. Secondo me, segretamente, Gianfranco Fini avrebbe preferito dire: un omosessuale non solo non può fare il maestro, ma dovrebbe essere eliminato. Ma Fini è uno stratega, sa che non siamo ancora ritornati ad avere quel tessuto sociale pronto a giustificare l'eliminazione di una razza. Ma se la gente continua però ad applaudire senza riflettere un uomo di destra, stiamo davvero sulla buona strada. E poi mi domando come mai l'incompatibilità professionale riguarda solo la fascia dei maestri elementari. Si è solo confusa l'omosessualità con la pedofilia o è solo il primo passo per arrivare alla legittimazione della pena di morte o alla selezione della razza? O forse la preoccupazione di Gianfranco Fini è la violazione dei diritti dell'infanzia? Se è questo, per una volta mi trovo d'accordo con un uomo di destra. Anch'io vedo come prima cosa da eliminare e combattere la violazione dei diritti dell'infanzia, solo che io le cause e le soluzioni le ricerco altrove. Mi domando infatti se si identifica l'eterosessualità come viatico per l'ordine sociale e come base per la costituzione di sani nuclei familiari. Come mai, se questo è il modello da seguire, come mai e come si spiegano tutti gli stupri e gli incesti perpetrati fin dalla notte dei tempi all'interno delle sane famiglie? E ci vogliamo forse dimenticare della violenza fisica e psicologica subita dai figli gay e dalle figlie lesbiche all'interno dei sani e domestici nuclei familiari eterosessuali? O non vogliamo neanche parlare dell'assoluta negazione, che equivale alla negazione di un diritto, nel non consentire, per esempio, ad un adolescente di vedere ed essere informato sulla possibilità di altre scelte oltre a quella eterosessuale? Sono dell'idea che dovremmo tutti, proprio tutti, interrogarci su cosa si intende per violazione dei diritti dell'infanzia. La mia e la nostra indignazione non nasce solo dallo scalpore suscitato da questa affermazione, ma soprattutto dalla constatazione che ancora una volta si concentri l'attenzione su un problema fittizio. È vero che la scuola ha tanti problemi e il governo e purtroppo anche i sindacati non la stanno certo aiutando. Vedi per esempio la riduzione del numero degli insegnanti di sostegno per gli alunni portatori di handicap o il finanziamento da parte dello Stato dalle scuole private o il numero massimo di alunni per classe, eccetera, eccetera. È proprio vero, la scuola ha tanti problemi. Ma la scuola, per la scuola, è fondamentale avere insegnanti con particolari capacità professionali, motivati, responsabili e che non si limitano ad indottrinare i discenti sul leggere, scrivere e far di conto, ma che siano capaci di trasmettere valori fondamentali come la libertà e la coscienza di scegliere. Questo serve per la costruzione di una società dove regni correttezza, sincerità, lealtà, rispetto ed uguaglianza. Se poi per accidente l'insegnante è un nudista o simpatizzante della musica afrocubana o amante della cucina vegetariana o eterosessuale o lesbica come me, è davvero irrilevante. E allora, per rifare il verso a Fini Gianfranco, fuori i fascisti, dichiarati e non, dalla scuola. E per concludere, una poesia di Patrizia Cavalli. Anche quando sembra che la giornata sia passata come un'ala di rondine, come una manciata di polvere gettata, e che non è possibile raccogliere, e la descrizione e il racconto non trovano necessità né ascolto, c'è sempre una parola, una paroletta da dire, magari per dire che non c'è niente da dire. Arrivederci ragazze, a martedì prossimo. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do.